America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Uno scampanellio di chiusura non esattamente positivo, quello che abbiamo sentito ieri a New York. Il Dow Jones è tornato in perdita, -1,61%, il Nasdaq -2,17%, l'S&P 500-2,07%, il Dow Jones è di nuovo sul livello di 11.010 per l'esattezza. Ma come mai? Perché? Soltanto perché c'è un po' di preoccupazione per la Germania o per il fatto che il famoso piano di aiuto per l'Europa forse non è poi così immediato come tutti si aspettano? Beh, non è soltanto quello. È vero che c'è un piccolo rallentamento, ma c'è anche un problema per l'economia americana. E dunque, che è successo in questa situazione? Come spesso è successo in passato, il presidente Barack Obama ha soltanto puntato l'indice sull'Europa. In Europe, they're going through a financial crisis that is scaring the world, and they're trying to take responsible actions, but those actions haven't been quite as quick as they need to be. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama aveva già puntato l'indice contro l'Europa, lo ha fatto di nuovo ieri durante un incontro con un pool di giornalisti latinoamericani, ispanici. Gli chiedevano che cosa pensasse di questa crisi europea. Obama ha detto testuali parole: in Europa il sistema bancario e finanziario non sono gestiti nel modo efficace che sarebbe necessario per affrontare la crisi del nostro tempo. E poi ha aggiunto che ci vogliono vigorose azioni che ancora non ci sono state, e questa situazione ha continuato è motivo di preoccupazione. Parole ovviamente drammatiche, parole sicuramente non costruttive. C'è un dato di fatto però non secondario, che nel momento in cui il mercato ha pensato che davvero ci fosse questo strumento, e vi ripeto, è uno strumento che non è sparito, è uno strumento su cui si sta lavorando, su cui si sta cercando il compromesso, ma vi dicevo, nel momento in cui il mercato ha avuto la sensazione che ci fosse lo strumento, come avete visto è rimbalzato. Abbiamo fatto il 4% lunedì, siamo andati molto bene martedì, questo proprio perché c'era un ottimismo di fondo. E dovrebbe essere questa una dimostrazione pratica, concreta per i nostri ministri, che non bastano soltanto le misure di austerità prese all'interno dei singoli paesi, ma che ci vuole qualche cosa di più, di forte, per dare un'idea di coesione europea. Di questa situazione ne ho parlato in un party, il solito party di Nouriel Roubini, il grande economista qui a New York. Qualcuno lo chiama Dr. Doom. L'ho incontrato appunto a casa sua, aveva invitato una gran quantità di banchieri finanzieri internazionali, perché proprio quella mattina aveva avuto una riunione nel suo centro studi per discutere del suo nuovo rapporto sull'economia. Diciamo subito che direi in linea con il suo personaggio, la visione per il futuro non è molto ottimistica dal punto di vista, direi, della ripresa economica. Nel momento in cui dà un'occhiata di insieme all'economia globale, Roubini ritiene che si stia entrando in recessioni in quasi tutte le economie avanzate. Anzi, ha detto specificatamente che secondo lui gli Stati Uniti sono già in recessione in questo momento, sulla base di dati economici che sono già usciti sul mercato. Roubini continua, dice che a questo punto la questione non è se saremo in una recessione oppure in un double dip, ma se questa recessione sarà relativamente moderata per consentirci di attutire il rischio della crisi finanziaria globale. E qui per ora Roubini dice non c'è risposta, dipende soprattutto da quello che succede nell'eurozona, e qui torniamo al nostro problema centrale, e se gli europei riusciranno a trovare un accordo per rispondere a questa sfida. Suppose that, you know, you do this mechanism and you use it to backstop Italy and Spain. And since there's pressure on Italy and Spain, this mechanism then goes and buys Italian and Spanish debt. Now, that mechanism, like any other mechanism, works if Italy and Spain are illiquid but solvent and need time to regain the market credibility and have spread reduction. But you take a credit risk, because in any one of these schemes, at the end of the day, somebody's taking the credit risk. And who's taking the credit risk if the instrument is borrowing a AAA is Germany. Qua sono entrato più direttamente in discussione con Rubini sul progetto, sul pacchetto che si è discusso al Fondo Monetario, l'idea di questo veicolo. Ecco, lui non ci crede molto, almeno in questi termini, fa un discorso molto concreto. Dice, ma insomma, il mettere insieme un pacchetto di questo genere richiede che paesi come la Spagna e l'Italia siano non liquidi, però solventi. E a quel punto sì, si può creare una emissione AAA, però alla fine, dice, alla fine il rischio ricade sulla Germania. Perché il rischio qual è? Che la situazione dell'Italia e della Spagna vada ad essere non soltanto illiquida, ma anche insolvente. E dunque, se si arriva a quello, come se ne esce? Perché alla fine Italia e Spagna insieme hanno un'esposizione di oltre 3.000 miliardi. E chi si prende il rischio di questo e-bond, chiamiamolo questo bond europeo? And you can do this thing as long as you have the political will to do it, and as long as the Germans are going to then break the coalition with the Liberal Democrats and CSU and go and have a coalition with the Social Democrats and the Greens, because the FPD is not going to accept that. Rubini è drastico, dice che non è pensabile o immaginabile che l'attuale coalizione di governo possa appoggiare un progetto di questo genere che vada a fare leva e che vada a creare poi alla fine responsabilità o rischi direttamente sulla Germania. Qual è la soluzione secondo lui? È che questa coalizione cada, che il governo Merkel cada. È sbagliato pensare che il governo Merkel sia una garanzia per l'Europa. Forse, dice, la garanzia per l'Europa più importante verrà da una coalizione diversa, verdi e socialdemocratici, che probabilmente sì, loro sarebbero disposti ad andare avanti lungo la linea di una emissione pesante a livello europeo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Alla veneranda età di 85 anni, Tony Bennett, ve lo ricordate, ha cantato anche con Andrea Bocelli a Central Park non tanto tempo fa, ha raggiunto la vetta della classifica dei dischi più venduti con la sua raccolta di duetti celebri. Ha venduto 179.000 dischi nella prima settimana di consegne. Dunque un duetto Tony Bennett e Carrie Underwood. It had to be you. If the fate wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.